Sole 24 ore. Finanziaria, il governo vara una manovra leggera da 3 miliardi di euro. Lavoro, persi quasi 400.000 posti in 3 mesi, l'occupazione mai così male dal 94. Influenza A, 20 avvisi di garanzia ai medici di Messina per la donna morta a causa del virus. Ambiente, oggi via la conferenza di New York, buone notizie intanto per l'ozono, gli accordi funzionano e il buco si richiude. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Nuova conferma oggi dell'Istat: la crisi sta avendo un impatto ritardato negativo sull'occupazione. Negli ultimi 3 mesi si sono persi quasi 400.000 posti di lavoro. Ne parleremo più avanti. Intanto oggi il governo ha esaminato la prossima manovra finanziaria, una manovra leggera da 3 miliardi di euro circa. Ci sono anche le previsioni sulla congiuntura. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Poco meno di 2 ore di riunione del governo e poi via libera alla manovra 2010, un provvedimento che avrà un impatto da circa 3 miliardi di euro. Sul fronte coperture si prevedono 580 milioni il prossimo anno, 380 nel 2011 e circa 2.300 nel 2012. Il capitolo macroeconomico poi migliorano, secondo Palazzo Chigi, i dati del prodotto interno lordo del nostro paese. La crescita segnerà quest'anno una contrazione del 4,8% contro una stima negativa del 5,2% del DPEF, mentre nel prossimo anno il PIL segnerà una crescita dello 0,7% contro lo 0,5% previsto sempre dal documento di programmazione economica e finanziaria. Il debito pubblico si attesterà quest'anno al 115,1% per crescere il prossimo anno al 117,3%. Soddisfatto il Presidente del Consiglio Berlusconi, che poco fa in conferenza stampa ha spiegato che il nostro Paese uscirà prima di altri dalla crisi. Sentiamo. Questa volta si è verificato ancora che la decisione difficile, l'ho definita epocale, ma non a caso ha tenuto. Abbiamo presentato una legge finanziaria che è fatta di 3 articoli e delle tabelle, che non ha modificato niente per il 2010 e per il 2011 e che ha aggiunto invece il 2012. Chiesto ai ministri di non rispondere più a domande sui gossip, ha detto ancora il Premier, che ha accusato l'opposizione di comportamento anti-italiano. 2 annunci infine da Berlusconi: ad ottobre rifinanzieremo le missioni all'estero ed ancora presenteremo nel Consiglio dei Ministri la riforma dell'università. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E per quanto riguarda invece un'inchiesta che coinvolge anche il Presidente del Consiglio, quella dei diritti TV, i PM di Milano, a quanto riportato oggi da Repubblica, avrebbero chiuso l'inchiesta. In arrivo ci sarebbe dunque una richiesta di rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nel processo per la compravendita dei diritti TV, a pochi giorni tra l'altro dalla decisione della Corte Costituzionale sul lodo Alfano. Da Palazzo di Giustizia, Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Prima o dopo la pronuncia sul lodo Alfano, ormai pronto l'avviso di chiusura d'indagine per l'ultimo procedimento a carico del Premier, resta in un limbo da cui la Procura di Milano ancora non sa come toglierlo. Solo dopo una riunione con il procuratore capo Manlio Milale, i PM stabiliranno se depositare l'atto d'accusa nell'inchiesta Mediatrade prima del 6 ottobre o dopo. Chiuse le indagini per scadenza dei termini, da giorni è attesa anche l'effettiva chiusura della fascicolo per appropriazione indebita e da giorni il dilemma della lodo è dibattuto nella stanza del PM Fabio De Pasquale, convinto però che fino al 2005, scrive nella sua chiusura, Silvio Berlusconi sia stato socio occulto di Frank Agrama e ne abbia utilizzato le attività per sottrarre soldi alle società italiane verso conti esteri. Insomma, diritti TV rivenduti, gonfiati a Mediaset e la differenza, secondo l'accusa, sarebbe stata distribuita su conti esteri. Una piccola traccia sarebbe stata anche già trovata in una filiale dell'UBS. I protagonisti di questo procedimento sono in gran parte gli stessi di quello per i diritti TV Mediaset, ormai vicino a sentenza, ma bloccato proprio per il lodo Alfano. E in virtù della legge che sospende i processi per le 4 più alte cariche dello Stato, la posizione di Berlusconi è stata stralciata anche al processo Mills, come congelato a Roma è il procedimento sul caso Zakka Rai. E allora staremo a vedere che quali saranno gli sviluppi. Per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Ora con la cronaca. Sarebbe stata individuata la causa dell'incendio divampato questa stamattina attorno alle 9.15 nella clinica Caracciolo al quartiere Montesacro a Roma, sarebbe scaturito da un lumino acceso per la morte di una paziente avvenuta ieri. L'istituto è una casa di cura per anziani, malati terminali, dove erano ricoverati 21 pazienti, alcuni dei quali sono rimasti feriti. L'incendio ha provocato anche la morte di una donna di 87 anni. E ora andiamo in Sicilia, dove ci sono 20 avvisi di garanzia firmati dal sostituto procuratore di Messina per gli accertamenti relativi alla morte di Giovanna Russo, deceduta sabato scorso per il virus dell'influenza di tipo A. Sono 20 gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Messina nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Giovanna Russo, la donna 46 anni affetta dal virus influenzale A e deceduta sabato scorso nell'ospedale Papardo. Il procuratore capo della Procura di Messina, Guido Loforte, sottolinea che gli avvisi di garanzia sono un atto dovuto, emessi anche a tutela dei destinatari e sono necessari per l'avvio dell'autopsia. Gli avvisi sono destinati a tutti i medici che hanno avuto direttamente o indirettamente in cura la paziente, ma anche a chi ha analizzato i tamponi eseguiti sulla donna. I provvedimenti firmati dal sostituto procuratore Adriano Asciglio sono ancora in corso di notifica. Intanto all'ospedale Papardo stamattina sono arrivati gli ispettori inviati dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana per compiere accertamenti sulla morte della paziente. Si tratta di 4 funzionari, 2 provenienti da Roma e 2 da Palermo, che acquisiranno i documenti clinici relativi alla degenza iniziata il 30 agosto scorso. L'ispezione dovrà chiarire se il team medico ha fatto tutto il possibile per curare la donna e se questa è davvero deceduta a causa del nuovo virus. Rosa Maria di Natale, GR24, Sole 24 Ore, Messina. E ora parliamo del reato di clandestinità, perché la Procura di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla norma che incrimina il soggiorno illegale degli immigrati. La questione è stata proposta questa mattina al giudice di pace. Secondo quanto esposto dal PM dell'udienza, l'articolo 10 bis non è in linea con quanto stabilito da 3 articoli della Costituzione. E ora all'estero, perché la polizia francese ha cominciato questa mattina a Calais le operazioni di sgombero e smantellamento della cosiddetta giungla di Calais, la vasta zona sabbiosa vicino al porto francese sulla Manica, dove trovano rifugio centinaia di immigrati clandestini che tentano di raggiungere in modo irregolare la Gran Bretagna. The jungle is our house. La giungla è la nostra casa. Così recitavano gli striscioni mostrati dalle centinaia di afghani accampati nella zona a ridosso del porto di Calais, in Francia. Ma gli striscioni e i tanti volontari delle ONG non hanno fermato la polizia, che ha iniziato questa mattina le operazioni di sgombero del campo. Un'operazione annunciata da mesi dal ministro francese dell'immigrazione Éric Besson, criticata dalle organizzazioni umanitarie, che sostengono che la mossa non farà molto per risolvere il problema dell'immigrazione illegale. La giungla di Calais, secondo Besson, era una base per i trafficanti di persone. Tra i circa 600 abitanti delle capanne vi erano di certo i trafficanti, in particolare curdi, che tentavano di gestire l'accesso al porto, e i tentativi dei migranti di infilarsi dentro i camion diretti in Inghilterra. La maggioranza però erano profughi afghani in fuga dalla guerra. Abdel, 21 anni, da Kabul, ci aveva raccontato solo pochi mesi fa il sogno inglese. Qui soffriamo molto e dipendiamo solo da noi stessi, ma avere asilo politico in Inghilterra è più facile. Molti di noi hanno già fratelli e sorelle nel Regno Unito, per quello noi vogliamo raggiungerli. 278 i fermati al termine delle operazioni dei reparti speciali della polizia francese, la metà di loro si è dichiarata minorenne. Ora scatteranno le pratiche per l'asilo politico o il rimpatrio. Restano i dubbi sull'efficacia dell'operazione. I trafficanti si organizzeranno nuovamente, giungla o non giungla. Nel 2003 il governo francese aveva chiuso il vicino centro di Sangat, gestito dalla Croce Rossa. Attirava migranti e trafficanti, si diceva. Chiuso Sangat, si creò la jungle. E ora, ancora una volta, l'Europa mostra le sue falle nella politica dell'immigrazione. Giampaolo Musumeci, GR24, Il Sole 24 Ore. Oggi a New York, all'ONU, giornata dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, si apre infatti la Conferenza Mondiale sul Clima delle Nazioni Unite. Ne vogliamo parlare con il professore di Governo dell'Ambiente dell'Università Bocconi di Milano, Francesco Bertolini. Buongiorno. Sì, buongiorno. Nonché presidente di Green Management Institute. Quali sono, professore, le premesse di questa giornata dedicata appunto al tema del clima in vista degli incontri più importanti che ci saranno a Copenaghen? Le premesse, come sempre, sono piene di buone intenzioni. Basti ricordare pochi mesi fa all'Aquila, quando il G8 definì degli obiettivi molto ambiziosi per quanto riguarda il cambiamento climatico, e cioè si fissò nell'80% l'obiettivo di riduzione al 2050. Questi obiettivi a così lunga scadenza mi lasciano sempre molto perplesso, perché poi in realtà è difficile tradurli in atti concreti. In New York invece è un momento di avvicinamento a quello che sarà il reale appuntamento critico per la gestione del cambiamento climatico, e cioè la conferenza delle parti di Copenaghen a dicembre, dove si dovrà discutere del dopo Kyoto e quindi si dovrà verificare se la nuova disponibilità degli Stati Uniti si tradurrà poi in atti e nuovi protocolli sottoscritti a livello internazionale che possono in qualche modo affrontare in un modo più deciso il cambiamento climatico, che ormai richiede interventi molto più determinati e decisi da parte della comunità internazionale. Professore, e contro lo scetticismo diffuso su questi vertici internazionali, che gli accordi funzionino lo dimostrerebbero i nuovi dati dell'ESA che parlano di una riduzione del buco dell'ozono. E così si può dire che quello che è stato fatto in passato su questo tema è servito e adesso i risultati si vedono. Sì, il dato sull'ozono ci fa forse per la prima volta ben sperare sull'utilità di questi grandi accordi internazionali. Basti pensare che il protocollo di Montreal risale al 1987, il protocollo cioè che mise al bando i clorofluorocarburi, cioè le sostanze che provocavano la cosiddetto in modo semplice il buco nell'ozono. Basti pensare che si stima che ci vorranno circa 50 anni per richiudere il buco dell'ozono, e è un tempo assolutamente ragionevole rispetto alla grande sfida del clima che abbiamo di fronte, ma il protocollo di Montreal è un precedente che dovrebbe spingerci in questa direzione, perché dimostra come si possa affrontare a livello globale, quindi a livello di comunità internazionale, un problema ambientale, e come si possa in qualche modo ottenere dei risultati che oggi sembrano essere impossibili per quanto riguarda il cambiamento climatico. Abbiamo visto e continuiamo a vedere come sia difficile spingere paesi di vecchia e nuova industrializzazione a sottoscrivere il protocollo di Kyoto. Però insomma questi dati sull'ozono ci lasciano ben sperare anche sul resto. Grazie al professor Francesco Bertolini. C'è da dire che sulla settimana che si apre oggi a proposito del clima all'ONU c'è anche un evento cinematografico che promette di attirare l'attenzione, mira a diventare la prima più vista nella storia del cinema. Parliamo di The Age of Stupid. Grazie infatti alla tecnologia satellitare, in decine di paesi verrà proiettato in contemporanea. It's like looking through binoculars as a tsunami races towards the shore. Tra 40 anni, a bordo di una zattera in uno scenario da apocalisse, ci guarderemo indietro e ripenseremo a quando ancora potevamo fare qualcosa per evitare il disastro. 101 degrees Fahrenheit, it's the hottest day ever recorded. Così parte il film tra documentario e fantascienza The Age of Stupid. Siamo nel 2055 e un anziano signore, l'attore Pete Postlethwaite, riguarda foto e filmati del 2008 e si domanda perché non abbiamo fermato la devastazione dell'ambiente quando eravamo ancora in tempo. Losing everything you have, it's so overwhelming and the grief is profound. È l'ennesima scomoda verità, questa volta raccontata dalla regista Franny Armstrong. Ecologista anche la proiezione. La trasmissione satellitare consente di risparmiare sulla produzione e sulla distribuzione delle pellicole. La prima produrrà l'1% di emissioni rispetto a un normale evento di promozione globale di un film. Come on, stupid computer. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 17 minuti, nella prima parte di GR24 siamo partiti dalla finanziaria esaminata e approvata dal governo, una manovra leggera da 3 miliardi di euro, e poi le affermazioni di Berlusconi a proposito della stampa: accetto io i miei ministri solo domande sulla politica, niente gossip. E poi per quanto riguarda l'occupazione, i dati Istat: persi quasi 400.000 posti di lavoro in 3 mesi, l'occupazione mai così male dal 94. Poi siamo andati anche in Sicilia, dove sono arrivati 20 avvisi di garanzia per la donna morta a Messina per l'influenza A. Riguardano gli avvisi di garanzia i medici che l'hanno presa in cura. E poi abbiamo parlato della giornata all'ONU dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici. Ora le altre notizie. E restiamo all'estero, le truppe straniere se ne devono andare dall'Iraq e dall'Afghanistan. Questo ha detto oggi il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in una nuova invettiva, un discorso tenuto ad una parata militare a Teheran. I popoli della regione sono capaci di risolvere da soli i loro problemi e non accetteranno mai, ha detto Ahmadinejad, la presenza di stranieri. Tornate ai vostri paesi. E a proposito della situazione in Afghanistan e dell'impegno militare italiano in quel paese, il nostro diario afghano. Diario afghano. Sullo schermo della TV della sala convegno truppa di Camp Invicta a Kabul scorrono le immagini da Roma. In silenzio alcuni militari, quelli liberi dal servizio, seguono la diretta dei funerali di Stato dei loro commilitoni. C'è molta commozione, sull'intera base è sceso un insolito silenzio. Abbiamo pianto, mi dice il primo caporal maggiore Angelo Longo, il comandante della mia pattuglia. Intanto si continua a discutere sulla dinamica dell'attentato. Ai nostri microfoni il comandante della base, colonnello Aldo Zizzo. Il veicolo è esploso sulla destra della carreggiata, fermo comunque a bassissima velocità, e poi ci sono gli spari sicuramente che i nostri hanno sparato in aria, poi vedremo se è stato perché erano sotto attacco o perché per allontanare, quindi saranno poi quei rossi a stabilirlo bene, visto che ormai la primacy su tutto ce l'hanno loro. Io personalmente, questo è quello che ho visto io, che fosse fermo al margine destro della strada. Poi ognuno torna al suo lavoro. È dura, ma bisogna andare avanti. Il tenente liberato Robustelli. Qui siamo veramente sotto pressione dal punto di vista lavorativo rispetto anche ad altre missioni che abbiamo già fatto, perché il contesto qui fuori è veramente pericoloso. Bisogna stare attenti e purtroppo loro hanno trovato... E qui giri un angolo anziché girare l'altro e salti in aria. Purtroppo, nonostante i nostri continui warning, insomma, ci stiamo attenti, ma qui è veramente una lotteria e quando capita è un destino beffardo veramente. È tutto da Cristina Balotelli che vi parla da Kabul. Sono Alberto Negri e ho conosciuto Nancy Esch-Dupré, la donna che per la prima volta ha raccolto migliaia di libri e documenti sulla storia dell'Afghanistan, che adesso possono essere consultati all'Università di Kabul. Nancy ha sottratto alla distruzione di 30 anni di guerre e ai roghi dei talebani una parte fondamentale del patrimonio culturale di questo paese. La sua è una straordinaria storia d'amore, cominciata quando arrivò a Kabul nel 1947 come moglie del primo ambasciatore americano del dopoguerra. Nancy si innamorò del paese e anche di un giovane professore, Louis Dupré. Fu davvero un colpo di fulmine, mi raccontava Nancy, abbandonai tutto per seguirlo. Sopravvissuta a un cancro e alla morte di lui, Nancy Dupré non ha mai abbandonato la sua impresa. Persino all'epoca del Mullah Omar rientrava a Kabul per raccogliere quello che si poteva salvare dalla furia degli integralisti. Oggi chiamano Nancy la mamma dell'Afghanistan. Questa anziana e fragile signora è il simbolo vivente di quanto possa durare l'amore, inossidabile nel tempo e oltre ogni limite. L'abbiamo già accennato in apertura del giornale radio, parliamo di economia. L'impatto della crisi si fa sentire sul mercato del lavoro. Nel secondo trimestre, secondo i dati diffusi dall'Istat, il numero degli occupati è calato di 378.000 unità, inflessione dell'1,6% rispetto ad un anno fa. Il tasso di disoccupazione è così salito al 7,4%, in crescita rispetto al 6,7% dello stesso periodo dell'anno scorso. E a margine del Consiglio dei Ministri, di cui abbiamo parlato poco fa, il commento del ministro del welfare, che dice l'Italia registrerà un leggero aumento della disoccupazione che arriva quest'anno al 7,4%, dunque Sacconi prende atto del dato Istat, ma aggiunge: se si guarda ad altri paesi europei si vede che l'impatto della crisi sugli occupati è stato fortemente contenuto. E a proposito della crisi, storie dalla crisi, cercasi persona generosa e di cuore per un prestito d'onore di 100.000 euro, è questa l'inserzione versione piuttosto originale pubblicata sulle pagine locali della Repubblica, con cui un imprenditore milanese, Antonio Mangone, 42 anni, chiede aiuto per salvare la sua azienda, una società che si occupa di maxi affissioni pubblicitarie messa in ginocchio, lui dice, dai clienti insolventi ma anche dalle banche. Maria Luisa Pezzali l'ha intervistato. La situazione, diciamo, del credito per le piccole e medie imprese oggi in Italia è una cosa allucinante, è un problema che non viene affrontato seriamente, quindi per non andare, diciamo, perso tutto il lavoro fatto in questi anni, la mia provocazione è stata quella di chiedere un prestito d'onore, perché è l'unica cosa che mi è rimasto, perché ormai oggi vengo valutato per un rating di banca, per nient'altro, avendo però 1 milione di euro di crediti e avendo 450.000 euro di debiti, io rischio domani che qualcuno venga da me e mi dica: scusa, mi devi pagare, decreto ingiuntivo mi fa fallire avendo dei crediti. Quindi il mio problema cos'è? Ma riusciamo, la legge, lo Stato riesce a intervenire per sbloccare e scongelare i crediti delle aziende? Allora, anziché continuare a parlare di Tremonti Bond per le banche che continuano sempre loro a prendere i soldi e non darli, perché non dargli direttamente alle aziende? Perché altrimenti qui siamo milioni di piccole e medie imprese che chiuderanno, tante partite IVA che chiuderanno. Il mio grido, e io ho detto basta, allora la mia provocazione è: chiedo, qualcuno, ci sarà qualcuno che mi farà un prestito d'onore? Esiste l'onore oggi? Almeno questo? Io sono in grado di restituirli con il mio lavoro. C'è qualcuno, non ci sono cose di destra e cose di sinistra, qui esiste il lavoro, esiste produrre, esiste avere la dignità di poterti pagare il mutuo, esistono tante cose che anche una persona come me, che fino a ieri avevo delle possibilità, ho capito quanto è difficile. A chi è rivolto la sua richiesta? Alle tante persone per bene che penso ci siano ancora, perché bisogna anche andare a vedere lo storico di una persona per dire sì, questo è degno. Perché oggi tu vieni considerato sempre in base a un computer che decide il tuo destino, perché ti vengono messi i dati, per di più, io l'anno scorso ho chiuso anche il mio bilancio societario inutile, ho chiuso con più 20% e le banche mi hanno tirato lo stesso il mio rating. Beh, allora cosa devo fare? Cosa devo fare? Non so più cosa devo fare, dobbiamo pregarli, dobbiamo metterci in ginocchio, non ne posso più, io ho la mia dignità, basta. E ora andiamo a Firenze. Il Consiglio Comunale doveva affrontare, era previsto che il sindaco Matteo Renzi sciogliesse il nodo della Cittadella Viola, il nuovo parco sportivo commerciale della Fiorentina, su cui c'erano state polemiche. I Della Valle sembravano pronti a lasciare la presidenza del club. Però Renzi ha sorpreso tutti affrontando il ridisegno di tutta la città e quindi non occupandosi solo di questo aspetto, ma anche di un'altra querella importante, quella del passaggio del super tram da Piazza Duomo, che sarà pedonalizzata, e così ha raccolto consensi anche nell'opposizione. Paolo Piacenza l'ha intervistato. Questa città è divisa tra quelli che dicono che il tram è brutto, cattivo, deturpa, fa schifo, e quelli che dicono che i bus, 1800 bus in Piazza Duomo, sono brutti, deturpano e fanno schifo. Credo che la soluzione più logica sia quella di dire: vabbè, smettiamo di considerare, come diceva Arbasino, Piazza Duomo il più elegante spartitraffico del mondo e facciamola diventare una delle piazze più eleganti del mondo. Cioè investiamo sul futuro, investiamo sulla socialità, pedonalizzando totalmente. Ora poi mi fa piacere che ci siano commenti positivi, voglio vedere quando i fiorentini sono costretti a passarci a piedi, quanto ci metteranno a tornare a criticare. Però è positivo che la città abbia avuto un po' di scossa da questa proposta, che il 25 ottobre diventerà realtà. Uno degli ultimi passaggi del suo discorso è stato proprio invece la querelle della Cittadella Viola. Adesso l'area scelta è quella che è stata al centro anche delle polemiche, l'area di Castello, che è anche stata sequestrata. Questo comporterà problemi, e soprattutto avete risolto il nodo dello spostamento dello stadio, cioè si farà anche il nuovo stadio nell'area della Cittadella? Assolutamente sì, rispetto al tema dello stadio, cioè non è immaginabile una cittadella senza lo stadio. La famiglia Della Valle, Diego Della Valle in primis, ha presentato un progetto particolarmente interessante e intrigante. Bisogna fare le cose rispettando le regole, naturalmente, questo è una assoluta priorità tanto per la famiglia Della Valle quanto per il Comune di Firenze. Quindi noi abbiamo individuato un percorso che ci pare possibile, percorribile. La zona di Castello ha vissuto più vicende giudiziarie e vicissitudini giudiziarie. È chiaro che adesso le responsabilità penali sono dei singoli, quell'area è un'area su cui c'è un progetto, su cui non aumenteremo le volumetrie, questo è molto importante, però questa possibilità di realizzare la città c'è, è collegata a una procedura pubblica, corretta e legale, e da questo punto di vista penso che sarebbe una bellissima occasione per Firenze riuscire a investire come dire, sul futuro e non soltanto a continuare a farci le storie su come era bello il nostro passato. 25 anni dopo il primo storico duelli, chissà quanti di voi lo ricorderanno, tornano ad incontrarsi a Valencia Kasparov e Karpov, i due miti degli scacchi. Un quarto di secolo, ma sembra ieri. Era il settembre del 1984 quando Anatoly Karpov, l'osannato campione del mondo in carica, si ritrova dall'altro lato della scacchiera un ragazzo di 21 anni, proveniente dalla provincia dell'impero sovietico, Baku. Si chiama Garry Kasparov, per molti è già il Mozart degli scacchi. La sfida a Mosca è senza esclusione di colpi. Ordinato e metodico Karpov, istintivo ed irruento lo sfidante. I due rivali si logorano a vicenda. Parte bene il campione, rimonta Kasparov, si fa sul 5-3 per Karpov, poi una lunga serie di patte. Dopo 48 partite la Federazione Internazionale decide per il no contest. L'anno dopo con regole nuove vince Kasparov che strappa il titolo a Karpov al 23esimo incontro. Oggi i due miti della scacchiera si ritrovano di fronte a Valencia. Entran in battaglia dos grandes maestros en activo del ajedrez. Karpov e Kasparov. Qualche chilo in più e qualche capello in meno per entrambi, Karpov e Kasparov tornano a darsi battaglia. La sfida è commemorativa e durerà 3 giorni, con partite a cadenza rapida. In palio non c'è più il titolo, ma la voglia di stupire il mondo e di sorprendere l'avversario è rimasta quella di un quarto di secolo fa. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto, in studio Alessio Maurizi che ha curato questa edizione con il coordinamento di Maria Piera Ceci, regia Fabio Cantadori. Adesso arriva Buongiorno America con Stefano Pistolini. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.